Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, cari radioascoltatori. Come sapete, da alcuni mesi sto battendo su un punto, vale a dire: segnalatemi le storie di resistenza alla mafia in tutto e su tutto il territorio nazionale. Incontri, storie, eventi, prese d'atto, manifestazioni, racconti personali, tutto ciò che racconta il modo in cui gli italiani fanno quotidianamente, giornalmente, resistenza e opposizione alla penetrazione delle mafie, che non sono un problema solo del sud ormai. Ebbene, alla mail, che vi ripeto perché ne aspetto molte di segnalazioni, che è sottotiro@radio24.it, alcuni giorni fa è arrivata una bellissima lettera di un nostro radioascoltatore della provincia di Cuneo, il quale ci ha segnalato una iniziativa di un istituto alberghiero, l'Istituto Alberghiero di Dronero. Un'iniziativa che trovo straordinaria, perché hanno i ragazzi fatto un'agenda di 16 mesi in cui è ovvio che dentro ci siano ricette, curiosità culturali, storiche della zona, della loro zona, oltretutto una zona, lasciatemelo dire, l'ho visitata molte volte, semplicemente spettacolare e splendida. Però accanto a queste storie logiche, rutinarie, potremmo dire, c'è ben altro, e per sapere cosa c'è noi ne parliamo con la professoressa Maria Lucia Tondo. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Allora, quale altro spazio è stato dedicato in questa agenda? Sono stati dedicati diversi spazi a diverse iniziative. Questa in particolare riguardava nei giorni il ricordo dell'anniversario di morte dei caduti per mafia. Ecco, questo è molto importante ed è singolare. È singolare che accada a Cuneo, che non ha avuto moltissimi morti per mafia, anzi non ne ha avuto alcuno, per fortuna. Però c'è una radice profondissima che ha fatto prendere questa iniziativa, è la radice della partigianeria, dei partigiani che hanno combattuto per questa nostra Italia unita, signori. Professoressa Tondo, lo spieghi lei questa cosa? Sì, questa nostra Valle Maira geograficamente in effetti è molto lontana, così a prima vista culturalmente, dalle terre del sud. Per cui poteva sembrare difficile, ed lo è stato in parte, far accettare questa scelta. Ma ci è sembrato comunque che il sacrificio di queste persone fosse in qualche modo coerente con quello di tutte le donne e gli uomini che durante l'ultima guerra erano stati capaci anche di sacrificare la propria vita per non cedere all'ingiustizia, ecco, la lotta partigiana, certo, in particolare. Ecco, nel momento in cui qualche... Beh, non posso dire quel che penso, altrimenti potrei essere querelato. Diciamo, in cui qualcuno purtroppo pensa che l'Italia non sia unita e non possa rimanere tale, io trovo che questa iniziativa sia semplicemente spettacolare. Mi emoziona moltissimo. E sentite qual è la motivazione che è stata inserita all'interno di questa agenda. E poi, nei singoli giorni, è il ricordo di ciò che avvenne nei secoli passati nella nostra valle, ma anche il ricordo di chi ha perso la vita per contrapporsi alle diverse mafie del Sud Italia. Non è un allontanarsi dal nostro territorio, è semmai un riconoscere che il patrimonio della resistenza, che tanto ha significato per Dronero, oggi si incarna soprattutto nel resistere ai poteri non democratici e non rispettosi della legalità. Signori, questa frase è da brividi. Professoressa Tondo, lei ci stava spiegando dei suoi alunni, ecco, come l'hanno presa questa iniziativa? Ma in un primo momento c'è stato uno sconcerto, nel senso che come mai questa scelta, ho proposto questa scelta. Poi i ragazzi però hanno capito, che si sono anche appassionati, che rientrava in un progetto di educazione civica, diciamo così, no? Anche se non esiste come materia ufficiale in questa scuola. E quindi hanno capito che era importante e significativo proprio in questa terra, appunto, che di immigrazione ne vede moltissima. Questa è una zona a forte immigrazione anche dal sud. Io stessa sono un'insegnante meridionale. Certo. Quindi, anche se il suo accento ormai si è piemontesizzato. Manco dal sud da 15 anni, da più di 15 anni. Certo. E quindi così è interessante, no? Scoprire che questi esempi luminosi veramente di onestà civile. Certo, certo. Ecco, ma io vorrei chiederle questo, professoressa Tondo. Lei è una donna del sud, vive da 15 anni in una terra splendida, questa, certo, la provincia di Cuneo. Io invito tutti a visitare perché è da sogno. Ha notato dei cambiamenti? Voglio dire, stiamo parlando di fuffa quando parliamo di segni tangibili della presenza di capitali sporchi riciclati e riciclabili nel Piemonte? Oppure effettivamente voi sentite che non è più come una volta? Ma io il confronto col passato su queste terre non so farlo, non posso farlo. Posso soltanto dire che nei miei ragazzi noto un preoccupante atteggiamento di accomodamento e di aggiustamento di fronte anche a situazioni poco oneste e poco limpide. Certo. E per cui mi sembra indispensabile in questo momento educare i nostri ragazzi a non essere succubi e non essere schiacciati da questi, assolutamente, da questi atteggiamenti. Assolutamente, ed è per questo che queste iniziative vanno ricordate, vanno segnalate. Ricordo ancora la nostra mail, sottotiro@radio24.it, segnalate tutte le iniziative, anche piccole ma straordinariamente significative come questa, di persone che fanno un percorso di legalità e di resistenza alla penetrazione o alla presenza molto spesso delle mafie. Raccontateci le vostre storie. Io ringrazio la professoressa Maria Lucia Tondo dell'Istituto Alberghiero di Dronero per il suo intervento. Ricordo il mio blog per chi volesse continuare a leggere storie di legalità, guardie o ladri, ormai lo conoscete. Ringrazio Filippo Aureggi in regia e Laura Fagini in redazione e Roberto Carullo vi augura una buona giornata.